svelga dal passato ogni memoria irrita e lasci la mia casa senza sperar perdono. Ti ridomando in grazia il piccioletto dono che in Ravenna ti porsi. Pensando all'amor mio, le si dolenti casi di Lancilotto forte e di Ginevra sua, sacria li stessa morte. Su bianchi fogli veri la numerosa traccia del pianto che allor biondo mi scolori alla faccia. Stesso. Ancor più innanzi. Dove? Ed era si fatta notte grandemente, e la luna era levata, e facea chiar rossi ella lucea per tutto il prato. Ancora, ancora. Sì, dopo il convegno. Sì. E la regina vederlo così smunto e pallido e doloroso scolorossi pela pietà nel viso e vacillando gli cade tra le braccia e lungamente in sulla bocca lo baciò.